Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, preparatevi perché oggi torniamo sotto le lenzuola. Lei sa farmi venire la voglia già dal modo col quale si spoglia. Piano pianino si sfila il vestito in due pezzi, fa cose da pazzi. Lei mi dice, lei spegni la luce, poi ad un tratto si tira giù tutto. Io riaccendo e all'improvviso mi trovo davanti il paradiso. Cosa succede sotto le lenzuola a casa vostra? Avete ragione, messa così la domanda è un po' indiscreta, ma di sicuro assume un'altra prospettiva se come me leggete l'articolo pubblicato sul numero di Star Bene in edicola. Si intitola "Lui mi manda sempre", tra parentesi, in bianco. Ed è proprio questo articolo che oggi diventa il protagonista della nostra puntata. Qui in studio accanto a me Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, che l'articolo l'ha scritto da l'ho maschio. L'ho scritto da maschio, sì. Ciao Alessandro, insomma, ciao. Questo pezzo mette te e tutto il genere maschile sotto la lente di ingrandimento di noi donne, che vi scrutiamo, vi analizziamo anche sotto le lenzuola, quando non sempre voi, che appartenete al sesso forte, lasciatelo dire, siete degni di tale attribuzione. Tu non ti sei sentito chiamato in causa dal pezzo che hai scritto per il tuo mensile, di' la verità. Ma io la penso esattamente come te, nel senso che è vero che noi molto spesso pensiamo solo a noi stessi. È un caso eclatante l'eiaculazione precoce, che io considero una forma di impotenza ancora più diffusa e più subdola dell'impotenza, no? Nello stesso tempo la cosa preoccupante è che il paradiso della mazurka di prima a volte non basta. Mi è piaciuto molto, però a volte non basta, e lo vedrete e lo sentirete anche dalle nostre storie. Ci sono casi in cui tu hai davanti il paradiso eppure, e il paradiso ti emoziona un po' troppo. L'emozione a questi effetti vasocostrittori che non sono proprio l'ideale per certe parti. Esatto. Allora oggi esploreremo il mondo della sessualità con gli occhi, le parole e, lasciatemelo dire, anche le critiche delle donne che a volte sono soddisfatte e felici dei loro uomini, ma in molti casi hanno invece qualcosa da dire al loro compagno. Compagno che nella maggior parte dei casi neppure si pone il dilemma. Sentite che cosa ha rivelato una ricerca pubblicata di recente su una rivista scientifica. Una ricerca condotta dall'Indiana University Center for Sexual Health Promotion e pubblicata sul Sexual Journal of Medicine ha rivelato che gli uomini sono convinti di essere molto più bravi a letto di quanto in realtà pensino le loro compagne. I maschi sotto le lenzuola sembrano infatti più interessati a compiacere se stessi piuttosto che a soddisfare la propria partner. Infatti, mentre l'85% di loro si è dichiarato assolutamente certo di essere riuscito a procurare un orgasmo alla partner, in realtà solo il 64% delle donne in questione lo aveva effettivamente provato. Non per vantarmi, ma nessuno si è mai lamentato. Ti credo, scappi come una lepre. Io credo che si divertano molto. E come lo sai? Lo so, perché lo so. Perché loro... Sì, perché loro... E come lo sai che veramente... Ma che stai dicendo, che fingono l'orgasmo quando... È possibile. Sì, addio. Perché? A tutte le donne è capitato di fingere. Beh, non l'hanno mai finto con me. E come lo sai? Perché lo so. Ah, già, giusto. Dimenticavo, sei un uomo. E questo che vuol dire? Niente. Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto, tira le somme. E io non so riconoscere la differenza? No. Sei ridicolo. Allora, voi donne all'ascolto, l'avete riconosciuto, noi veramente è uno dei nostri film preferiti, miei di Laura Vanossi, troviamo sempre un sacco di spunti, era Harry, ti presento Sally. Voi donne all'ascolto, avete qualche... userei lamentela, ma qualche considerazione da fare insieme a noi. E voi uomini all'ascolto, vi siete trovati al centro del letto, ma anche al centro di qualche critica che vi ha rivolto la vostra compagna e che vi ha un po' spiazzato. Allora chiamateci 800 24 00 24 e scriveteci 349 238 6666, perché oggi è proprio di questo che vogliamo parlare insieme a voi. Direi non per fare polemiche, per scatenare un fuoco di accuse da una parte all'altra, ma proprio per darvi qualche consiglio di maggiore felicità sotto le lenzuola. Al telefono abbiamo il professor Vincenzo Mirone. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Andrologo e ordinario di urologia all'Università Federico II di Napoli, ma anche autore di Quando l'amore non aspetta, un libro che ha riscosso grande successo, scritto a quattro mani con Simona Izzo. Professore, voi siete partiti da 5 storie di passione e sentimenti per raccontare le cause, ma soprattutto le possibili soluzioni a uno dei disturbi sessuali maschili più diffusi, la difficoltà o l'incapacità di controllare l'eiaculazione. E voi avete usato l'approccio narrativo psicologico e quello medico per spiegare che il disagio non sempre deriva da un aspetto psicologico, spesso può dipendere anche da fattori fisici risolvibili, anche se, professore, penso che lo stress e i pensieri abbiano sicuramente il loro peso. Ma il libro è un libro, come diceva lei, scritto a quattro mani, parte da storie per poi andare sui contenuti ovviamente scientifici. Il grande problema dell'eiaculazione precoce, che ci tengo a dire è la disfunzione sessuale più importante nell'uomo, molto più della disfunzione erettile, dell'impotenza. Parliamo in Italia di circa 4 milioni di uomini, quindi un numero importante, e specificando, per eiaculazione precoce noi intendiamo eiaculare entro i 2 minuti, grave nel minuto. Era, direi, e continua a essere il problema che l'uomo non la percepisce come una malattia, come per l'impotenza, ma la percepisce come un disagio. Quello che diceva il dottor Pirizzari è assolutamente vero, nel senso che l'uomo è un narcisista e quindi prima che lui riconosca nella coppia che questo è un problema di coppia passano veramente anni, e in genere mentre nell'impotenza è l'uomo che viene, ancorché dopo molto tempo, ma di per sé non accompagnato dalla compagna, in genere l'eiaculatore precoce viene quasi sempre accompagnato dalla propria compagna. Parliamo quindi di una percezione di disagio, e questo è il vero problema. Quindi questi uomini non riconoscono a se stessi tale come una malattia. Teniamo presente che l'80% degli eiaculatori precoci sono eiaculatori precoci primari. Primari vuol dire che dal primo rapporto, da 15, 16, 17 anni, loro sono eiaculatori precoci e rimangono eiaculatori precoci per la vita, finché non decidono di andare in uno specialista, urologo, andrologo, di farsi curare. Quindi un percorso molto più articolato e complesso rispetto a quello dell'impotenza. Però prima di rivolgersi allo specialista ci mettono anni. Anni. È stato misurato. 800 24 0024, la puntata di oggi la svilupperemo prendendo proprio spunto dalle storie che Alessandro Pellizzari ha messo al centro del suo articolo, brevi vignette dove un uomo e una donna non riescono a trovare intesa sotto le lenzuola per i motivi più disparati. Cominciamo a sentire una storia, devo dire che cominciamo con la più classica delle situazioni. Sono innamorata di Alberto e tutto va bene, tranne che a letto. Lui è davvero troppo veloce, il rapporto dura poco più di un minuto, così io non riesco mai a raggiungere l'orgasmo. Lui mi dice che è sempre stato così, che è veloce e che le cose forse miglioreranno conoscendoci meglio. Però intanto il mio piacere è... Marta, 35 anni. Per raggiungere finalmente lo scopo finale, e cioè il piacere reciproco, poi reciproco e simultaneo. Ecco, simultaneo proprio poi, ma veramente no, per carità, ma come dice, un'eventualità quasi raramente, ma a volte non, perché dipende molto dal fatto che l'uomo stesso tende a risolvere il rapporto in 3 quarti secondo una tendenza per cui appunto l'uomo conclude prima ancora che la donna possa dire la donna durante il rapporto sessuale può rimanere come un ciocco troppo rigido e inespressivo, riuscendo però a calcolare con un certo successo il numero delle ragnateline sul soffitto. Oppure può meditare di tornare da mamma, o nei casi più fortunati rivolgersi a qualcun altro. Una magnifica, meropa e generosa. Professor Mirone, l'Anna Marchesini veramente ha raccontato in tempi, ecco, in tempi non so, quando ancora non se ne parlava. Certo. Ha trovato davvero una formula che poi è stata ripresa dalla comicità, ma secondo me trovava le parole e i ritmi. Professore, vi aiutano queste portare anche con un tono di un po' di ironia i problemi che spesso gli uomini fanno fatica a raccontarsi, ad accettare e a raccontare? Assolutamente. Il libro che abbiamo scritto con Simona ha anche questo scopo, cioè raccontare delle storie e poi andare sulla medicina, quella diciamo che è più scienza. Quindi anche l'ironia, devo dire che l'autoironia è una delle qualità che mancano agli uomini. Questo forse è uno dei primi punti critici. È molto più autoironica la donna, che ama mettersi in discussione. Per secoli l'uomo ha sempre criticato l'insicurezza, ma non sempre l'insicurezza o l'autocritica sono dei deficit, anzi io direi al giorno d'oggi la capacità di autocritica è una delle più importanti qualità che ognuno dovrebbe avere, e questo non fa parte direi del sesso maschile come cultura. E non è facile per un uomo, perché ovviamente lui mette in discussione tutto se stesso e non riesce a scorporare la sessualità dalla virilità, che è un punto centrale dell'essere uomo. Questo però direi che è un totem che appartiene al passato. Oggi questo tipo di concezione assoluta di autostima deve cambiare. Un percorso lungo, complesso, sia ben chiaro, perché poi è partito 30 anni fa dalla pillola anticoncezionale, quindi un percorso innanzitutto io direi prima che scientifico, filosofico dell'essere uomo, quindi credo che da fare ce n'è tanto. E ora stiamo vivendo il momento di nadir, il punto più basso, perché questo tipo di autoconcezione è ovviamente non più dei nostri giovani maschi, ma purtroppo non hanno ritrovato ancora dei loro punti fermi. Quindi in questo momento direi che il sesso maschile è al suo punto più basso di autostima. Sì, guardi professore, una riflessione. Il problema è che noi siamo degli spudorati mentitori di fronte al sesso, ma lo facciamo sia con le misure che con i tempi del rapporto, che con le proprie prestazioni. Infatti nel mio articolo io ho usato solo dati scientifici, perché sono sicuro che quando vengono fatte delle ricerche, per quanto serie siano le domande ben calibrate, comunque il maschio italiano ha questo atteggiamento, che poi è un boomerang, perché se noi analizziamo tutti i problemi che poi lei si vede in studio ogni giorno, tutta questa gente che ritarda e che quindi crea anche un problema di coppia, anche un problema a se stesso, perché comunque l'uomo non è stupido, capisce che sotto c'è qualcosa che non funziona, e se fosse affrontato prima molti scoprirebbero che è molto facile a volte risolvere la problematica, che magari è solo di ansia o ha bisogno, come dire, di un aiutino, o magari è un'infezione che era passata sotto silenzio, insomma. La prostata può dare eiaculazione, certo, precoce. Però per dire, nell'eiaculazione precoce non dimentichiamo che l'80% sono primari. Addirittura la medicina pensa a una causa genetica in questo senso. Ma la cosa grave, io torno su un punto centrale, l'eiaculatore precoce percepisce questo come disagio, non come malattia. Questo è il punto reale. Dico questo perché da un anno noi abbiamo finalmente tra le mani una molecola, la prima molecola, quindi non faccio torto a nessuno, la prima e unica molecola che è la dapoxetina, quindi uso neanche il nome commerciale della molecola, uso quello ovviamente la base chimica, che viene utilizzato e che potrebbe risolvere, allungando di 4-5 volte il tempo di eiaculazione nell'eiaculatore primario. Bene, il mercato della dapoxetina è fatto da poche centinaia di pezzi. Se rapportato ai 4 milioni di persone, noi ci rendiamo conto che stiamo davanti veramente a una non percezione di malattia. Non certo. So se mi spiego. No, si è spiegato molto bene, professore. Quindi il messaggio chiaro che vogliamo dare con questa puntata, che mi stanno scrivendo molti ascoltatori, mi piacerebbe anche avere il parere delle ascoltatrici. Professor Mirone, non trinciare sinceratevi dietro il silenzio, non fate finta di niente, non abbiate paura, non pensate di essere degli uomini a metà, ma piuttosto andateci di nascosto dall'urologo. Ma parlatene con il proprio medico. Ma c'è Sergio da Napoli che vuole parlare con noi. 800 24 00 24. Sergio, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto ringrazio per l'intervento e ovviamente io non entro sul dato statistico o scientifico dell'eiaculazione precoce dell'uomo, ma mi permetto di spostare un po' l'attenzione su quello che è l'aspetto del mancato soddisfacimento della donna. Sì. Bene, io ho 55 anni, una vita vissuta tranquillamente, il problema per fortuna, ma non devo essere una scusante, non l'ho mai vissuto, però dico, ma probabilmente abbiamo mai esaminato anche il particolare fatto che la donna molto spesso non è partecipe, voglio dire, tutto quello scenario di eroticità, di sensualità e di partecipazione che la donna dovrebbe avere, molto spesso non c'è. Come dire che è un bel quadro, poi vai a vedere dentro c'è poca roba. Allora, non ripeto, non vuole essere questa una scusante, no, ma certo. Io guarderei questo aspetto. Grazie. Grazie a Sergio. Alessandro, voi ve ne siete occupati proprio nell'articolo, Sergio, evidente, sembra quasi che l'abbia letto. Sì, perché abbiamo parlato della storia di Nadia che è sposata con Franco da una vita e lui proprio sul più bello perde l'erezione e il professor Colpi, che è stato nostro consulente in questo servizio, che è andrologo presso l'ospedale San Paolo di Milano, ci ha spiegato che intanto bisogna vedere se c'è una causa funzionale, cioè organica, però molto spesso, ecco, in questo caso dà ragione al nostro ascoltatore, cioè è la donna che soprattutto nelle coppie di lungo corso dovrebbe far rientrare un po' di novità e di sorpresa in queste situazioni. Però io voglio insistere un attimo, ci sono anche questi casi, però nella maggior parte dei casi là dobbiamo farci un, come diceva il professor Mirone, un po' un esame di coscienza, nel senso che l'eiaculazione precoce, per esempio, è considerata un disagio anche perché noi alla fine raggiungiamo lo scopo, lei non sarà contenta, magari non ce lo dice, però. Infatti, professor Mirone, io vorrei tornare nei panni di Marta, che è protagonista della nostra prima lettera. Molte donne si rassegnano e molte anche si sentono inadeguate, rinunciano al piacere per amore. Noi sappiamo che nella coppia il problema di uno diventa poi problema di due, della coppia. Allora, da quale dei due vogliamo iniziare, professor Mirone? Ma io voglio iniziare una volta tanto dalla donna. Devo dire che la donna negli ultimi anni è diventata elemento determinante nella sessualità della coppia. Quello che diceva prima Pellizzari, io lo condivido a due mani, nel senso che l'uomo ha grandi difficoltà a parlare. La donna, direi che molto spesso è un elemento facilitatore della necessità di conoscenza da parte del maschio, e direi che se questo è plateale nell'impotenza, è un po' più strisciante nell'evacuazione precoce, però quello su cui voglio fermarmi è che oggi sempre più, guardiamo anche coppie anche più giovani, io vedo molti trentenni, quarantenni, quasi sempre tutti gli eiaculatori precoci, io ne vedo almeno 4-5 alla settimana, vengono ormai accompagnati dalla compagna, quindi devo dire che la sessualità ormai non è più considerata monogamica, è certamente una sessualità di coppia, quindi non c'è dubbio che va affrontata nella coppia, risolta nella coppia, e la donna molto spesso è un elemento che facilita, accorcia i tempi di soluzione di un problema, perché oggi quello che non si riesce a percepire è che abbiamo nelle nostre armi farmaci straordinari, parlo di quelli dell'erezione, ora di quello dell'eiaculazione, quindi anche per la donna sono in arrivo delle molecole straordinarie, quindi la sessualità ormai è percepita come qualità di vita, quindi non siamo più 40 o 50 anni fa, oggi abbiamo possibilità di risolvere i problemi, l'importante è considerare questi farmaci come tali e non come autosomministrazioni, certo, da comprare su internet in maniera così sospetta, andare dall'amico farmacista o andare addirittura dall'amico, comprarlo alla farmacia della stazione. Viva Dio, siamo nel 2011, bisogna lavorare in maniera molto trasparente e serena. Tenuto conto, professor Mirone, io devo dare la linea ai mercati e lo riprenderemo nella seconda parte, che l'attività sessuale è un termometro importante, un indicatore prezioso per la salute dell'uomo. Essere e benessere. sotto le lenzuola, problemi di coppia, e mi verrebbe da dire che in questi casi l'informazione è la soluzione. Per questo ne parliamo oggi insieme al professor Vincenzo Mirone, prendendo spunto da un articolo del numero di Star Bene in edicola, quando lui mi manda in bianco. Sempre, in questi casi. Io sono stata più generosa. E vi ho lanciato questo suggerimento, questa proposta che mi ha scritto un ascoltatore, dicendo: beh, in effetti gli uomini sono bloccati da queste donne che diventano sempre più aggressive, non solo nella vita, non solo nelle relazioni, ma anche sotto le lenzuola. Andiamo a sentire un'altra storia. Piaccio molto agli uomini e la mia ultima conquista, 28 anni, è pazzo di me, forse troppo, visto che è già la terza volta che non funziona. Dice che sono troppo bella, molto sicura di me, e questo gli piace tanto, ma lo agita un po'. Ed è la prima volta che gli succede. Io vorrei continuare la storia, ma lui guarirà? Simona, 33 anni. Devo dire che ringraziamo la nostra speaker Alessandra De Luca, che ha speakerato, vero? Era proprio Simona. Professor Mirone, faceva proprio Simona, ecco. O Samantha di Sex and the City. O Samantha. Professore, ma allora, facciamo paura agli uomini? C'è un profilo di donna che fa paura agli uomini e può giustificare queste defiance? Sì, assolutamente sì, la risposta è ma positiva. Ma come? Fino adesso ha detto tutto quello che io e noi donne avremmo voluto che lei dicesse, adesso ci dice, ci dà la colpa. No, sto scherzando. No, ma non è una colpa, il problema è quello dell'autocoscienza. Io ora ovviamente mi sposto sulle giovani generazioni, nel senso che l'uomo in questo momento ha una situazione di cultura della sessualità che è molto, molto, molto carente. Io parlerei prima di educazione sessuale. La donna, attraverso la mamma e poi il ginecologo, acquista una cultura della sessualità che in qualche modo manca al maschio, perché con il padre non si parla di questo, è un tabù, non c'è uno specialista, né l'andrologo, né l'urologo sono riconosciuti come il ginecologo dell'uomo, quindi dal pediatra si arriva direttamente al matrimonio, e noi abbiamo quindi un buco nero di 15 anni in cui la cultura è la cultura del tam-tam, dell'amico, la scuola, la doccia e le altre cose. E questo spiega un po' tanti dei nervi scoperti che oggi hanno i giovani maschi. Quindi non è tanto una, è certamente anche in parte una maggiore presa di coscienza della sessualità femminile da parte della donna, ma è soprattutto, direi, un punto di debolezza specifico da parte dell'uomo. Questa è un po' oggi la fotografia, diciamo, che va da 18 ai 30 anni, ed è molto più diffusa di quello che si pensi. Io non parlerei quindi di sovrapotere della donna, parlerei di particolare momento critico della sessualità maschile sulla base di una cattiva educazione sessuale. Professor Mirone, vogliamo allora, deve farlo lei, dare delle indicazioni. Analizziamo i casi, i disturbi sessuali più frequenti e cerchiamo di dare un'indicazione. Io ho detto che nell'informazione c'è la soluzione e credo che sia vero, no? Assolutamente, io penso. Oggi la medicina è soprattutto awareness, come dicono gli anglosassoni, informazione, prevenzione, conoscenza, quindi parliamo di quelli che sono fondamentalmente i tre punti topici, diciamo, della sessualità maschile, in ordine di importanza. Sicuramente l'eiaculazione precoce, quindi un soggetto che eiacula sotto i 2 minuti, primaria nell'80% dei casi, non va trascinata per una vita, ed è soprattutto da riconoscere, come diceva prima l'ascoltatore, il problema di non dare poi il giusto piacere alla coppia, quindi alla propria partner, quindi sono storie che non vanno trascinate per 20 o 30 anni o ignorate, vanno affrontate perché abbiamo soluzioni, oggi abbiamo un farmaco, la dapoxetina, in grado di risolverlo. Secondo punto, in ordine di importanza, parliamo di milioni di persone, la disfunzione erettile. Come diceva giustamente lei, ancora più importante, che molto spesso la disfunzione erettile è il sintomo di una malattia, come diceva prima, quindi può essere il campanello d'allarme di una malattia metabolica, come il diabete, come l'ipertensione, una qualsiasi malattia vascolare. Quindi attenzione, perché in un soggetto di 40-50 anni, insuccessi sessuali molto spesso sono campanello d'allarme in una malattia molto più seria, quindi non pensiamo solo alla sessualità, Ma pensiamo anche alla salute, perché... Esatto. Terzo problema, che prima era curato durante la visita di leva, ora la visita di leva non c'è più, la fertilità maschile. Ogni anno si sposano in Italia o vanno a convivere circa 240.000 coppie, di queste il 20%, 48.000 sono infertili, di questo 48.000 il 50% hanno responsabilità maschile, la gran parte di questi maschi hanno problemi come il varicocele o problemi di infertilità che, scoperti in tempo, potrebbero essere curati ed evitare il basso tasso di natalità che oggi affligge la nostra società. Quindi tre problemi molto importanti di fasce di età diverse che con una buona prevenzione, parlandone e andando dagli specialisti di riferimento, sono sicuramente in grado di essere curati. Professore, lo specialista di riferimento è molto importante, sarebbe anche importante parlarne con nella coppia e soprattutto anche parlarne con il medico di famiglia. Assolutamente. Ecco, proprio parlando con il dottor Gargiulo mi diceva: io quando vedo per la prima volta un nuovo paziente, sia donna sia uomo, gli chiedo com'è la sua attività sessuale, è soddisfatto? Perché, ecco, se il nostro medico non ce lo chiede, diciamoglielo noi, non abbiamo paura di essere, forse dovrebbe essere lui a fare la domanda, dovrebbe essere lui. Ma se lui non ce la fa, buttiamoli il discorso. Alessandro. Sì, volevo aggiungere forse un'altra categoria che non è patologica, che però risponde un po' al discorso di questa Simona così bella, così aggressiva, no? Cioè, il suo partner ha 28 anni, quindi è probabile che non abbia problemi, statisticamente problemi di tipo organico, però racconta poi nella storia che questo ragazzo, quando la vede, prima diventa pallido in volto, ha le mani fredde, insomma c'è tutto un elemento di vasocostrizione. Questa si chiama ansia, giusto? Da prestazione, professor Mirone? Ansia da prestazione psicogena, certamente. E che si fa? Che si fa? Bene, se ne parla, si cerca di tranquillizzarlo, si fanno quei 2-3 esami ormonali, il Doppler, che ci permettono di dire: guarda, sei perfettamente normale. Dopodiché abbiamo davanti tre strade: o lui ritrova sicurezza e quindi questo ovviamente lo fa uscire automaticamente sulla base degli esami negativi, oppure dei farmaci per l'erezione che aiutano per un brevissimo periodo di tempo a sbloccarlo, a riacquistare sicurezza, oppure una psicoterapia a breve termine. Ma insomma oggi la medicina offre soluzioni che permettono, la cosa importante è fermare il più velocemente possibile la spirale dell'insuccesso, perché sennò poi si stratifica questo su una sindrome depressiva e poi la sessualità sfocia nella depressione. Ricordiamoci che cattiva sessualità e depressione vanno molto spesso a braccetto, e quindi per non parlare dell'anticamera delle droghe, perché molto spesso una cattiva sessualità spinge i giovani a degli aiuti come appunto la cocaina o altri stimoli erogeni artificiali, che invece dovrebbero sapere aumentano il desiderio ma diminuiscono la qualità della prestazione. Questi sono tutti messaggi che anche ai giovani andrebbero dati. Io trovo che l'educazione sessuale nelle scuole dovrebbe essere una materia fondamentale, intendendo dai 10 ai 13 anni e non dai 40 ai 60. Ci sono dei metodi naturali, sai? Quali sono? Non lo so, te lo devo dire io. Vai da un sessuologo e lui te lo spiega. Mi vergogno di andare da un sessuologo. Se li sai, dimmeli tu, sei un medico. Il problema è il melillo, che è un muscolo che verso i 50 anni si contrae, per cui bisogna rilassarlo. E dov'è sto melillo? Il melillo? Il melillo è qui. E con la manipolazione può ottenere di nuovo un po' di elasticità. Deve fare un movimento circolare prima. Delicato. E poi si continua a massaggiare avanti e indietro. Melillo, dobbiamo imparare, noi donne dobbiamo insegnarvi a trovare l'esatta posizione del melillo, che è chiaramente una metafora, sapersi abbandonare all'altro in amore. Ma noi dobbiamo andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e poi torniamo di nuovo insieme con le vostre telefonate, con il nostro professor Mirone. Alessandro Pellizzari è qui con me, a tra poco. Essere e benessere. Professor Mirone, non sarà che, come succede a Bisio nel film, la vera disposizione delle pillole, che in automatico rendono prestante, ancora più desintonizzato gli uomini dal sentire i messaggi che il corpo li invia, insomma li ha buttati ancora di più nell'azione invece che nella calma riflessiva con cui diventare capaci di agire, sentire e pensare, mettendo proprio in giusta sintonia azioni, emozioni, pensieri. E questo anche fa la differenza. Certo, questo però in medicina si chiama counseling, cioè la capacità che il medico deve avere di far capire il senso della terapia. Non può essere imposta dall'alto la medicina, deve essere una spiegata, deve essere supportata da una diagnosi, interpretare il problema dal punto di vista medico e poi spiegare il tipo di terapia. Quindi direi che se un errore c'è stato dal Viagra dal 98 a oggi, ormai sono passati 13 anni, è forse stato nell'eccessiva ironia di questi farmaci, che sono dei farmaci invece straordinariamente importanti. Oggi non li stiamo completamente rivisitando, non li usiamo più al bisogno, li usiamo come riabilitazione, li usiamo come una medicina reale, quindi purtroppo c'è stata questa prima fase in cui ovviamente erano ridicolizzati, oggi finalmente se ne sta un po' rileggendo la lettura medica, ed è questa la strada giusta, insomma. No? Io voglio leggerle questo messaggio. Mi arriva da un ragazzo giovane di 28 anni, sano, dice, con una vita sessuale normale. Da qualche anno però non ho più l'erezione al mattino. Un segnale di cui preoccuparsi? Può essere collegato allo stress? Inoltre, esiste una eiaculazione precoce femminile? Dunque, ecco, campanelli d'allarme in cui voi come uomini potete capire che qualche cosa dovrebbe essere, non so, controllato. E non è solo questione, eccetera, di quello. Ecco. Sì, direi che la scomparsa dell'erezione al mattino è un primo sintomo importantissimo, perché questo ovviamente è un dato che il paziente tocca subito dal punto di vista proprio tangibile. L'altro aspetto, il glande più freddo, quindi si creano un po' dei primi problemi di tipo vascolare. Ricordiamoci che c'è un altro aspetto importantissimo, il fumo. Ricordiamo che il fumo è il fattore di rischio più importante per l'erezione, quindi da questo punto di vista per esempio la sigaretta è un nemico mortale per l'erezione, perché la nicotina chiude le piccole arterie, in particolare appunto quelle del pene, quindi quello è un fattore di rischio estremamente importante. Ma mancata erezione del mattino, glande più freddo, sono sicuramente le campanelle di allarme molto significativi. Allora, io devo dare il benvenuto a Olga, che ci chiama dalla provincia di Milano. Olga, buongiorno. Buongiorno. Beh, un po' sono un po' rincuorata, nel senso che vabbè, il compagno purtroppo parte bene e poi purtroppo non c'è più niente. Ma come? Però ho sentito il professore che ha detto che al mattino è molto importante. Lui infatti al mattino c'ha l'erezione. E va bene, diciamo che il rapporto finisce bene, però purtroppo io quando ho rapporti con mio compagno si inizia bene, però non arriva fino alla fine completamente con l'erezione. Ha fatto degli esami, vabbè, è andato dall'urologo, gliel'ha detto e ha detto che è un problema di testa. È un problema di testa, professor Mirone, perché anche la testa c'entra, e come? Sì, però io voglio sperare che questo urologo abbia fatto quei 2-3 esami, non è che è una categoria di esami, sono 2-3 esami. Quali sono? Ma sono fondamentalmente, direi il più importante si chiama Rigiscan, è un microcomputer che viene dato al paziente, che lo porta a casa per 2 notti. Durante la notte ogni uomo normale, quando sogna, questa è fisiologia umana, ha 3-4 episodi di erezione che il computer registra, e quindi questo ci permette subito di capire la cosa più importante. Se è un problema di testa o un problema invece di tipo organico. Poi il Doppler, che controlla come il sangue arriva al pene, e gli ormoni. Quindi in 2 giorni, se uno vuole, con questi 3 esami ha una diagnosi perfetta. Andare a sentirsi dire un problema di testa e poi magari c'è un problema vascolare, un problema ormonale, mi sembra una rispostina un pochino, se mi permette, superficiale. Allora, quindi Olga chiede al suo compagno di sottoporsi a questi esami, che potrebbero, come ci ha spiegato il professor Mirone, aiutare a fare una diagnosi più certa. Ma quale medico? Sessuologo o urologo? o andrologo? Ecco qua la domanda che ci siamo. Non c'è rissa tra noi, direi che prima è la clinica, quindi urologo e andrologo vanno benissimo, dopodiché se il problema ovviamente non è organico ma è psicologico, è evidente che il sessuologo abbia la parte del leone, però la prima, direi, perdonatemi, la cosa importante in medicina è fare prima la diagnosi, sì. Quindi bisogna giocare a carte scoperte, prima viene la diagnosi, una buona diagnosi, tranquilla, serena, condivisa, letta bene al paziente e poi partiamo con le terapie, però la diagnosi è un passaggio fondamentale. Allora, Alessandro, visto che volevi intervenire? No, è tutto assolutamente giusto, volevo dire che però bisogna avere anche il coraggio di cambiare medico, cioè trovo molto giusto, molto corretto, molto importante quello che dice il professor Mirone, che ha il coraggio come medico di dire, a me questa frasettina della testa mi suona male, io fossi un paziente, se non sono stato sottoposto a questi esami, che sono gli esami canonici, da fare in questi casi, perché giustamente dice il professor Mirone, prima escludiamo le cose che non dipendono da noi, poi se le cose sono più complicate, perché quelle che dipendono dalla nostra testa sono più complicate, ci pensiamo, certo. Però voglio dire, prima uno deve sapere, il cuore funziona, la circolazione funziona, magari si becca anche qualche cosa di, non dico meno importante della sessualità, però un diabete, cioè è il discorso che sotto le lenzuola, in realtà i problemini poi possono spostarsi e risolversi su tutto l'organismo. Michele ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io ho questo, tra virgolette, problema. Quando la mia ragazza vuole avere dei rapporti, io faccio fatica ad avere un'erezione, ma non perché stia male, non perché abbia dei disturbi fisici, ma la mia paura è che la routine non mi consenta di, sostenere le classiche performance. E questo mi sto domandando spesso. Scusi Michele, cosa vuol dire la routine? Non ho capito. Per routine intendo l'avere sempre, è un argomento un po' spinoso, ma avere sempre rapporti con la stessa partner. Ah, ecco. Ho capito. Professor Mirone. La patata bollente. Qui ci sono, come dire, il gentile ascoltatore unisce due dati, ansia alla prestazione con routine. Bisogna dire quale delle due prevale, perché in questo l'uomo è molto abile nel crearsi, come diceva prima Pellizzari, degli alibi straordinari. La routine, la solita donna, la solita compagna. Che potremmo dirlo anche noi, eh? Questo è reciproco, certo. Sicuramente. Allora la prima cosa è capire. Io dico sempre che mi piace molto quello che ha sottolineato dopo il mio intervento Pellizzari, che è molto importante dare all'uomo delle risposte molto tecniche, perché se iniziamo a lanciarci nella famosa gincana della psiche, non ne usciamo. Iniziamo a capire, sì. Ma il desiderio si è abbassato perché il testosterone è più basso? Potrebbe essere, no? Lo stress abbassa il testosterone, la pancia abbassa il testosterone perché finisce tutto negli adipociti dell'addome. Questo è un primo dato. Il testosterone, per esempio, è un ormone ignorato nell'uomo, pochissimi specialisti lo chiedono, questo spiegherebbe già. E come si misura il testosterone? Prelievo di sangue, banale. Quindi è molto facile. Banalissimo. Alessandro da Pescara, riusciamo a sentire Alessandro? Abbiamo un minuto. Alessandra, Laura Vanossi mi sta facendo il segnetto con la mano che è l'ora di chiudere, ma Alessandro, voglio darle la parola. Sì, buongiorno, io le faccio i complimenti innanzitutto per la trasmissione e niente, brevemente, io insieme a mia moglie abbiamo in certo qual modo affrontato e risolto il problema studiando e riscoprendo il Kama Sutra. Ecco, professor Mirone, vede il dialogo e poi dialogo è fondamentale. Dialogo è fondamentale e se aiuta anche il Kama Sutra, perché no? Perché no? Lasciamoci così. Intanto io mi auguro che questa puntata vi abbia aiutato, vi abbia dato le informazioni necessarie per occuparvi della vostra salute. Intanto ringrazio il professor Mirone, grazie professore Alessandro Pellizzari e voi che ci avete seguito, continuate a farlo, a domani. Essere e benessere.